questi assegni, so che sconetti a pieno e che non sai ben meno dove il cervel ti sta, e che non sai ben meno dove il cervel ti sta. Tu prendi in ogni istante per mosca e nell'elefante, un grillo per cavallo, per buon papagallo. Che dici non si sa, che dici non si sa. Astrologhi ti immagini, ti immagini. E con le tue sciogaggini balza di qua di là. E con le tue sciogaggini balza di qua di là, di qua di là, di qua di là. So che un bestia sei, so che sconetti a pieno e che non sai ben meno dove il cervel ti sta, e che non sai ben meno dove il cervel ti sta. Tu prendi in ogni istante per mosca e nell'elefante, un grillo per cavallo, per buon papagallo. Chi dici non si sa, chi dici non si sa. Astrologhi ti immagini, ti immagini. E con le tue sciogaggini balza di qua di là, balza di qua di là. E con le tue sciogaggini balza di qua di là, balza di qua di là, di qua di là, di qua di là. Ritirati, confonditi, che un pazzo al mondo simile non certo non si dà. Ritirati, confonditi, che un pazzo al mondo simile non certo non si dà, no, non si dà, no.